tanta crisi. Vive in brasa e luce a senso, e fui da vincia a brisa. E in stiva lula spicne sguerra, ciala ciala, ti asencet. E in fin chi da cian con crutas, e in program che porta pace. No se sai, state in ciurmec, era tal stems da crisi. La slavina sbescia mec, al qual incendisa. Momento fisce che nu svendessen, l'indeno mia autopendenza, il meglio resisce nu stein, vi dai besa quai. Che nu svain, nu stein già bain, putain sta quiets, guardai, guardai le altre stelle. Nu è la crisa, nu è l'ida, nu è la crisa, la ginca è la mesida, la ginca è la mesida, la ginca è la mesida, la ginca. Les che guardano per sassets, di lei tenta crisa. Viven brav se nurcia sez, e fuin da vincia brisa. E stiva lui, spiccio di sguerras, cialla cialla, ti asecet. E in fin chi da cian con frutas, e il program che porta pace. E in altre terre sfai noci, di lei tenta guerra. Qua in musa program da stoci, a sbain serra la serra. La laccia vencia pappurures, implica munda per stizza. Na gis da tante svittes, che crodin sindes, vie smittes. Lein uns bo, mein gleiti stizza, anda su parquesta stot. Lein uns bo, mein gleiti stizza, anda su parquesta stot. Well,